La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Un saluto agli amici in ascolto da Franco D'Assisti, La Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Eccoci qua, allora, un altro fine settimana di cinema sul grande schermo, con la solita ormai ondata di uscite. Sono 9 i film che trovano la via della sala in questo fine settimana, alcuni con distribuzioni piuttosto risicate, altri invece con qualche chance in più, ma pochi invece hanno un'uscita talmente forte da poter pensare di insidiare o quantomeno di scavalcare quelli che adesso stanno andando più forte negli incassi. Fra quei pochi c'è sicuramente Boris, il primo capitolo cinematografico di una saga televisiva che è diventata un cult tutto italiano. Di questo parleremo, e anche di molto altro, compresa una doppia intervista davvero molto speciale, ma non vi vogliamo anticipare nulla. Tutto il contenuto di questa puntata nei titoli di testa. Arriva al cinema la serie cult che ha riscritto i canoni del telefilm italiano. Boris trascina sul grande schermo la sua truppa sgangherata di attori e produttori, con i Beniamini del piccolo schermo, Francesco Pannofino e Pietro Sermonti. Gli ultimi giorni di vita di un grande reporter. Rivive nel film La fine è il mio inizio la figura di Tiziano Terzani, interpretato da un intenso Bruno Ganz, a colloquio con il figlio Folco, che è il volto di Elio Germano. Viaggio nell'inferno psichiatrico del nuovo thriller del maestro John Carpenter, The Ward. Protagonista, una giovane e bella ragazza disturbata, autrice di un gesto drammatico di cui non ricorda nulla. Ma in quel reparto non è certo al sicuro. Chuck vs. Cineforum. Omaggio a due riviste diversamente utili all'informazione sul cinema. La popolare Chuck si rifà il trucco. La cinefila Cineforum compie 500 numeri. Interviste incrociate ai direttori Piera De Tassis e Adriano Piccardi. E allora, questi i contenuti. Cominciamo quindi con Boris, cominciamo con l'Italia, cominciamo con un altro possibile campione d'incassi di questa fortunata stagione della commedia italiana, anche se magari non ai livelli di quelli che hanno davvero spaccato il botteghino tra Zalone e Claudio Bisio, ma insomma, Boris è il primo film di cui vogliamo occuparci in questa puntata della Rosa Purpurea. Non potevamo fare altro, permettetemi la battuta facile facile, che coinvolgere Boris Sollazzo, il nostro Boris che è in collegamento con noi. Ciao! Salve Franco e a tutti gli ascoltatori. Ti hanno dedicato un film, tu pensa un po' come siamo messi. Sono stati molto gentili, questo però non inficerà la mia obiettività, anche se mi rendo conto che Boris, che parla di Boris e dice che Boris gli piace, un po' autoreferenziale. Effettivamente un po' sospetto, ma cominciamo subito a entrare un po' nel clima di questo film, che chi conosce il telefilm sa benissimo, lo ha assaggiato questo sapore per più e più puntate. Chi invece è stato un po' lontano dalla versione televisiva forse si troverà di fronte a un prodotto abbastanza inedito. Allora c'è subito una prima clip che voglio farvi ascoltare. Dice che sei una merda. No, non è vero, chi ti ha detto? Te presento mia moglie, Damiana. Piacere. Aspetta un attimo, che sbuffio. Siamo in crisi. Mi dispiace. Ti presento le bestie mie, Arturo, te lo ricordo. Come stai? Lei è una femmina. Bella. Scansati. Lui è piccoletto. Francesco Dotti. Francesco Dotti piace. No. Come? Tanti auguri. Ma hai visto? Una figata, Polo Nord, va da ammazzarsi da rita. Hai visto quando l'orso gli scureggia in fascia, gli scioglie tutto il ghiaccio, io fa porco troia! Stai calmo. Quando è che lo famo un bel finto di cinema? Ciao, piacere. Signori, signore. René, non ci posso credere che è tutto finito. Insomma, avete capito qui il colloquio fra il Biascic e René. René è un signore che ha fatto tantissima televisione di scadentissimo livello, adesso non ne può davvero più, e la possibilità del riscatto si evidenzia, si materializza sotto forma di un film, di un vero film, di quelli per il grande schermo, di denuncia, un film tosto. Ma insomma, le cose non saranno tutte rose e fiori. Boris Sollazzo, che cosa ha portato Boris il telefilm nella così, nel modo italiano di vivere questa arte che è quella dei telefilm, questa capacità di fare tutto in poco tempo, girare, produrre velocemente e dare tante emozioni al pubblico sempre nello spazio al massimo di mezz'ora. Che cosa ha aggiunto il telefilm e cosa aggiunge al telefilm il film per il cinema? Ma il telefilm ci ha raccontato quello che tutti sospettavano della televisione e nessuno aveva il coraggio di dire. Ci ha rivelato determinati meccanismi, ci ha fatto capire perché la nostra televisione è qualcosa che non ci piace, a differenza della radio, che va invece ascoltata. Il film, secondo me, va a toccare dei nervi scoperti e, a mio parere, mi permetto di fare una piccola polemica, lo si vede proprio dalle critiche che ha ricevuto, va a toccare dei nervi scoperti del cinema italiano. Il cinema italiano è molto poco autoironico. Quel Nicola Piovani che si gioca l'Oscar a poker con gli sceneggiatori degli Occhi del Cuore è una felice eccezione, però fa molta fatica il cinema italiano a ridere di se stesso, tant'è vero che la battuta sul numero 5 di Medusa, che è una scimmia, o sui vertici di Magnesia, che poi non è altro probabilmente che Magnolia, che dicono che la concorrenza non esiste e invitano René Ferretti a chiudere gli occhi e a riaprirli e a dire la concorrenza sono sempre io, danno molto fastidio. Quello che mi ha colpito è che molti hanno individuato in Boris un attacco ai cinepanettoni e secondo me invece Ciarrapico, Torre e Vendruscolo salvano proprio i cinepanettoni. L'attacco feroce è al cinema radical chic, al cinema di sinistra, a quegli attori che parlano sottovoce, a chi appunto vuole fare un film tratto dalla casta, come René Ferretti, che si rifiuta di fare l'ennesimo rallenti nello sceneggiato del giovane Ratzinger e si butta in un'impresa suicida con soluzioni improbabili. Il film secondo me è un piccolo capolavoro, perché parlare così del cinema era più difficile del parlare della televisione come si è fatto nelle tre serie, e ci riesce con un linguaggio cinematografico e non televisivo, quindi per quanto mi riguarda è assolutamente il consiglio della settimana. Io sono rimasto entusiasta e quindi lasciatemelo dire per una volta in diretta radiofonica: Boris è bellissimo. Beh, non si può che sottoscrivere. Telegraficamente è un film che può andare oltre la sua nicchia ampia di satellitari adepti? Questa è una grossa difficoltà. Allora, c'è da dire, noi abbiamo già un dato, che è il dato del primo venerdì, e sono 128.000 euro. Un buon dato, non certo spacca botteghini. Potrebbe quindi arrivare a circa un milione dopo il primo fine settimana e forse ad arrivare a 3-4 milioni alla fine. Per un telefilm che ha avuto il problema di non essere mai stato, guarda caso, portato nella TV generalista, è un grosso dato. Certo, universalmente non è Zalone, come dicevi tu, quindi a mio parere quello è si può andare oltre gli internettari e i televisivi satellitari, ma non si sfonderanno, insomma, i muri dei blockbuster. Ora mi è chiara una cosa, Folco, che io come padre ero uno che faceva ombra. Sempre in prima fila, sempre allerta, sempre simpatico, sempre con le battute pronte. E tu dinanzi a tutto questo ti tiravi indietro. Le volte dure è stata dura, però, eh? Ma non avrei mai voluto averne un altro, hai capito? E quello che avete sentito è un po' l'incipit, un po' la summa di questo film, La fine è il mio inizio, un dialogo fra Tiziano Terzani e suo figlio Folco, interpretati rispettivamente da due grandi attori come Bruno Ganz nei panni di Terzani e Elio Germano in quelli appunto di Folco Terzani. Un rapporto padre-figlio, un modo di confrontarsi, mentre il padre, appunto, grande giornalista, grande reporter, grande viaggiatore, autore di libri di successo, di grandi reportage, che ha vissuto veramente in giro per il mondo, ha respirato le filosofie del mondo, si è appartato sulla sua casa sugli Appennini per morire, ormai condannato da una malattia che cerca di affrontare addirittura con un sorriso sulle labbra. Dice: voglio morire ridendo. Era questa la filosofia di Tiziano Terzani. Folco andò su queste pendici straordinarie dell'Appennino e raccolse l'ultima intervista, che era un po' una sorta di testamento, se vogliamo, almeno spirituale e morale, del grande giornalista e scrittore. Tutto questo questo è diventato un film ad opera di Joe Baier, regista tedesco, che si è innamorato di questo personaggio, appassionato di questa filosofia, ed è e ha messo in scena questa intervista sostanzialmente. Poi di questo parleremo, cioè della scelta di dare questo taglio, questa angolatura al film. Prima però voglio farvi sentire un altro momento che ci dà il sapore del contrasto di come questo passaggio di consegne non fosse poi proprio tutto facile, tutto rose e fiori. Sentiamo. Folco, io so che questi ultimi anni non sono stati facili per te, la separazione e poi il divorzio, ma ho l'impressione che tu ti sia voluto allontanare un po' troppo dal mondo. Cioè, tu vieni a dire questa cosa a me? Proprio tu? E sei stato 3 anni in Himalaya? Sì, io mi sono isolato, ma alla fine della mia vita. Tu invece sei giovane, devi partecipare alla vita, devi agire! Babbo, io ne faccio di cose, ne faccio anche tante. Magari sono cose che a te non piacciono, questa è l'unica differenza. Tu devi fare quello che vuoi, ma almeno una cosa concludila. Finora tu non hai mai concluso niente. Tu hai il terrore di sbagliare, per questo eviti di agire. E scommetto che anche questa volta non ti sei posto il problema di finire quello che stavi facendo prima di venire qui da me, o no? E allora? Scusami, se preferisco stare vicino a mio padre. Scusami tanto, Madonna. Tu fai la tua vita, ma non venire a dire a me quello che devo fare, va bene? Tu fai la tua vita, io la mia. E questo appunto un altro dei momenti, insomma, di questo rapporto di grandissimo amore che a volte ha le scintille. Da bravi toscani, Folco e Tiziano Terzani, insomma, non se le risparmiavano. Boris Sollazzo, dicevamo, forse l'unica perplessità di questo film riguarda un po' il taglio che è stato dato, cioè riportare al centro l'intervista fra padre e figlio è forse, in termini di linguaggio, la cosa meno adatta al cinema. Poi le immagini sono anche molto suggestive, ben girate e nulla da dire, ma insomma non aggiunge l'elemento, lo strumento cinematografico, quel che di solito invece dovrebbe aggiungere alla narrazione di una storia. Assolutamente d'accordo, caro Franco. Spesso si è fatto film, si sono fatti film solo di parola, dal Discorso del Re a Interview con Shanna Miller e Steve Buscemi. Il punto è che comunque l'elemento scenografico e di trama è comunque estremamente forte. Qui c'è sempre un pretesto oltre al testo, qui c'è solo il testo. Lo dicevamo, ma col massimo rispetto, che questo poteva essere un ottimo radiodramma. Il cinema, a mio parere, spesso deve tradire i libri per renderli veramente grandi e veramente belli sullo schermo, e in questo caso, a mio parere, Joe Baier doveva essere coraggioso e raccontare non la storia del granitico Terzani, anche in senso buono, di quest'uomo che, come dice anche nella clip, ha trovato il segreto della vita e di conseguenza della morte, ma forse raccontarci quel figlio acerbo, quel figlio soffocato da una presenza di un padre così ingombrante, quel Folco Quilici ben recitato da Elio Germano, nonostante forse il personaggio non sia scritto benissimo. Curioso, perché tra i co-sceneggiatori c'è proprio Folco Terzani, quindi insomma lui doveva scriversi sicuramente bene. È un film che lascia un po' di amaro in bocca, perché hai l'impressione che non si compia alla fine, e forse per il cinema risulta irremediabilmente noioso. Ecco, era Folco Terzani, ovviamente, non Folco Quilici, come è scappato. È un altro tipo di documentario e giornalismo. Però volevo anche dire una cosa sugli attori. Adesso sentiremo Andrea Oswart, che è rimasta un po' più, diciamo, colpita e impressionata dalla morale, dalla grandezza della vita di Terzani, che non è una grandezza facile da raggiungere. Lo ha detto anche Folco durante la conferenza stampa. Insomma, dice sì, il suo senso della pace come valore assoluto, per esempio. Dice: io stesso sono lontano da questa cosa, una cosa alla quale si arriva con grande, cioè il porgere l'altra guancia è una delle cose più difficili del mondo. Ecco, allora sentiamo subito Andrea Oswart. Questo film ci fa vedere cos'è l'uomo, o forse ci fa vedere cos'era l'uomo o cosa dovrebbe essere, perché oggi l'uomo purtroppo vive in un mondo dove vediamo film e pubblicità che ci fanno sentire sempre poveri, che ci fanno sentire sempre cosa non abbiamo, non valiamo niente se non abbiamo questo o quel tipo di cellulare, o non valiamo se non abbiamo quella bella macchina o quella borsa firmata, e tutta la vita è diventata una corsa dietro ai soldi, dietro alle cose che noi non abbiamo, vorremmo avere perché le vediamo in televisione, nei film, una bella ragazza o un bel ragazzo, una vacanza, eccetera, eccetera. E questo film è riuscito invece, quando l'ho visto per la prima volta, mi sono sentita ricca. E mi sono chiesta, ma che cosa significa? Significa che l'uomo in realtà non ha bisogno di tutte queste cose, non ha bisogno di mezzi per vivere. Che vita bella, bellissima ha avuto Tiziano e ha potuto trasmettere a tutta la sua famiglia, stando lì in cima di una montagna senza niente, senza aver bisogno di vestiti firmati, eccetera, eccetera. E comunque si è sentito il più ricco di tutti quanti. Insomma, è interessante anche questo sguardo di Andrea Oswart. Dicevo, attori secondo me molto bravi, soprattutto Elio Germano. L'ho trovato veramente bravo perché in un film di parola come questo, tutto parlato, riuscire anche a interpretare un accento particolare, come forse avrete sentito dalle clip, un'emotività, alzare per esempio il tono di voce di qualche nota per somigliare più alla voce brillante, quasi squillante di Folco Terzani. Insomma, è stato un lavoro non facile, e sulle difficoltà appunto di un film così parlato sentiamo proprio Elio Germano. Chiaramente l'impaginazione era spaventosa, no? Diciamo il layout della sceneggiatura colpiva perché era pieno di dialogo, quindi ci hanno sempre insegnato ad avere paura di film tanto parlati. Invece appunto la scommessa qui era che poi dentro queste parole c'erano tante cose molto interessanti, appunto, che il cinema non affronta mai, anzi che la nostra epoca storica non affronta mai in nessuna forma. E la scommessa è proprio quella, no? Di affrontare questi discorsi in maniera frontale, senza cedere poi a illusionismi vari o distrazioni, invece proprio andare diretti. Ecco, questa è la cosa che anche mi è piaciuta molto e che poi mi ha colpito anche nel vedere il film realizzato. Vedere Elio Germano, abbiamo parlato di La fine è il mio inizio, cominciamo a giocare come si conviene alla Rosa Purpurea, tre frammenti misteriosi di un film che dovete indovinare per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Sentiamo la prima. Pronto? Pronto? Tuo marito è un comunista. Spero che tu muoia, puttana comunista. Sappiamo dove abiti. Ma chi parla? E allora, questo è il clima, dato per capirci, la Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, fra poco ci saranno altre due possibilità. E allora, altro film, altra corsa, la terza scelta, non in ordine di grandezza o di bravura o di bellezza, ma in ordine cronologico, diciamo così, fra i 9 film di questa settimana, qui alla Rosa Purpurea non potevamo non parlare ovviamente di un nuovo film di John Carpenter, perché insomma un maestro come questo merita sempre attenzione, anche in un film come questo, che è un film di industria cinematografica. Gli è arrivata una sceneggiatura, l'ha accettata, l'ha diretta, però mostrando che il talento non è acqua, insomma, diciamo così. Cominciamo subito a entrare nel clima di The Ward, il reparto, con questa clip. Perché mi trovo qui? Spero che possiamo andare a fondo di questo mistero insieme. Parliamo di quello che è successo ieri, Kristen. Qual è la prima cosa che ti viene in mente? Il fuoco. E prima di quello? Prova a dirmi di quella fattoria, quella a cui hai dato fuoco. Perché sei andata là? Tu avevi l'indirizzo di quel posto scritto sul palmo della mano. Deve avere un qualche significato. No. C'eri mai stata prima di ieri? Io non lo so. Bruciando quella casa forse volevi distruggere qualche brutto ricordo. Ricordo che devi affrontare. Affrontiamolo insieme, vuoi? No, no. A volte la radice di un problema del genere risiede in un trauma di carattere emotivo. Non c'è nessun trauma di carattere emotivo. Come fai a dirlo? Senta, perché adesso non mi lascio andare? Non darò nessun problema. Lei non dovrà più preoccuparsi per me. Voglio solo darti il mio aiuto. Non mi serve il suo aiuto! Eppure eccoti qui, confusa e disturbata. Eccola qui, Kristen, confusa, disturbata, piena di lividi, di tagli, imbottita poi di sedativi, rinchiusa in un reparto inaccessibile di un ospedale psichiatrico, contro la sua volontà. Questa è la partenza, e chiaramente l'arrivo è scoprire perché Kristen sia finita lì, tra l'altro in compagnia di altre 4 compagne di percorso, 4 altre giovani donne molto disturbate e anche molto carine, che stanno con lei in questo The Ward. Boris, Un film, dicevamo, che sa andare su binari tradizionalmente classici, dove John Carpenter mette in scena con una sicurezza, ovviamente da veterano, con mano molto ferma, un thriller psicologico, anche ricordandoci, come dicevo prima, che il talento non è acqua, ovvero che se sai fare i classici li puoi fare anche 30 anni dopo aver fatto i tuoi film migliori. Esattamente, nel momento in cui ti metti a fare un film con la mano sinistra, se sei John Carpenter lo fai veramente comunque meglio di tutti gli altri. È curioso che con i giochi della distribuzione italiana, tre film che sono stati fatti ad anni di distanza, come Offside, Sucker Punch e The World, in cui ci sono dei cinecei più o meno agitati, si vedano uscire uno a distanza di uno di una settimana dall'altro. E in questo caso c'è un film tra i più classici dei thriller, neanche horror, thriller mentali, se li vogliamo chiamare così, all'interno di un manicomio, un film di scuola, se vogliamo, quasi accademico. Dopo 9 anni forse ci aspettavamo chissà quali fuochi d'artificio, però detto questo poi è un film perfetto. Nei primi 10 minuti Carpenter mette la sua firma, ci ricorda che è lui, e poi va in sicurezza, va un po' col pilota automatico, però è sempre una lezione di cinema, cioè andare a scuola da John Carpenter, anche quando la lezione è un po' più scontata, è un piacere. Quindi che cosa dire, probabilmente non ce lo ricorderemo come il miglior film di Carpenter, però è comunque uno dei migliori film di genere che abbiamo visto negli ultimi anni, e questo secondo me ci deve bastare. Grazie allora Boris Sollazzo per averci accompagnato un po' fra le uscite di questo fine settimana. Appuntamento ai prossimi incontri qui alla Rosa Purpurea. Arrivederci a tutti. Ed eccoci ancora qua, la Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma, e abbiamo voluto fare una cosa un po' particolare oggi, ovvero quella di raccontarvi due punti di vista sul cinema attraverso due riviste, due mensili di cinema molto molto diversi fra loro, con una vocazione, una missione molto diversa. Da una parte Chuck, fondato nel 1984, mensile della Mondadori, che dall'inizio ha avuto un taglio popolare, di divulgazione e di utile strumento, guida per chi al cinema ci va, anche per chi il cinema lo sogna, un po' con tutti i suoi aspetti anche più glamour e più mondani. Dall'altra parte invece una rivista cinefila in tutto e per tutto, dura e pura, come Cineforum, fondata nel 1961, sede a Bergamo, e in questo senso anche c'è un po' l'anima molto rigorosa di questa rivista, che ha compiuto recentemente, ben pensate, 500 numeri, 500 mesi con Cineforum. È davvero un record per la rivista diretta ora da Adriano Piccardi, così come Piera De Tassis dirige da tanti anni Chuck, che si era fatto un maquillage importante, ha un po' dato una svolta, una innovazione alla rivista Cineforum, come dicevamo, di fronte a un compleanno così importante come quello dei 500 numeri. Allora abbiamo detto, perché non mettere a confronto, in un'intervista parallela, montata in parallelo, Piera De Tassis e Adriano Piccardi, i direttori di Chuck e di Cineforum, di fronte ai grandi temi della divulgazione cinematografica, cominciando con un identikit dei propri lettori. I nostri lettori sono tendenzialmente studenti o docenti universitari, poi appassionati di cinema, di solito preferibilmente che seguono attività di cinecircoli, cineforum, quindi. E poi che altro? Noi abbiamo parecchi abbonamenti anche proprio nelle biblioteche, quindi lì chi lo sa chi ci legge. I lettori di Chuck sono più o meno sempre gli stessi, si rinnovano, sono molto giovani in generale, o comunque giovani, molto appassionati, talvolta perfino feticisti di cinema, non sono esclusivamente cinefili stretti. È un pubblico molto trasversale che ama, appassionato di cinema e soprattutto dell'atmosfera cinematografica. E dopo le doverose presentazioni andiamo dentro la polpa. Qual è il film storico che avresti voluto recensire? Ancora Piccardi e De Tassis. Forse Vertigo di Hitchcock, La donna che visse due volte. Così mi ha sempre affascinato quest'idea appunto del doppio, del vuoto, questi due temi che si intrecciano nel film e che modulano i personaggi, i loro rapporti, li rimandano continuamente l'uno all'altro e poi alla fine li lasciano appunto nel modo in cui li lasciano, in modo assolutamente tragico. Ma guarda, i film sono tanti, naturalmente posso dire che avrei voluto essere presente all'anteprima di Abu de Souffle, Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, sperando naturalmente che sarei stata fra quelli che lo capivano subito e ne avrebbero capito la portata rivoluzionaria in quel momento. E il personaggio, regista o attore, che avresti voluto intervistare? Qui vado sul sicuro, Yasuhiro Ozu, il regista di Viaggio a Tokyo, sì, di Fiore d'Equinozio, Il gusto del sake, che è morto nel 1963 quando io avevo 11 anni. Ed è un regista di cui sono immediatamente caduto innamorato. Billy Wilder non l'ho mai intervistato, lo considero forse il più grande regista davvero di tutti i tempi, anche rispetto ai grandi classici che non ho potuto intervistare come Orson Welles. E qual è il film dell'ultimo anno che ti è piaciuto di più? Il film che mi ha affascinato di più è Le quattro volte di Michelangelo Frammartino, che ha avuto un'uscita molto avventurosa, ha avuto anche una produzione molto lunga, molto trascinata, ma che poi è stato presentato prima a Cannes con notevole riscontro, e l'ho trovato veramente affascinante. Ma io confesso due colpi di fulmine, non posso confessarne uno, sicuramente The Social Network e The King's Speech. Sono l'uno l'opposto dell'altro da un punto di vista cinematografico e di tensione e di tendenza, ma proprio per questo non riesco a scegliere. Ecco, si dice spesso negli ultimi tempi il cinema italiano, la crisi, non ci sono più i film medi, eccetera. Poi arrivano invece le punte, appunto, i grandi incassi delle commedie, si dice bene, il cinema italiano è rinato. Il cinema italiano è vivo o è morto? Penso che il cinema italiano sia vivo in quel settore realizzativo e produttivo più, come dire, in disparte rispetto al mainstream. Sì, da quelle parti lì è possibile trovare delle cose al di là delle quattro volte. Per esempio l'anno scorso ho visto film come Pietro, come La bocca del lupo. Ci sono prodotti in giro molto interessanti, molto anche importanti, ovviamente in un percorso laterale rispetto a quello del botteghino. Guarda, il cinema italiano a mio avviso è vivissimo, quello che non è viva è l'Italia, quella che sta quasi morendo l'Italia, e per questo stravince la commedia, la voglia di comunque di ridere, la voglia di buttarla in caciara, perché davvero non si sa quali altri pesci pigliare. L'arrivo e l'avvento di Avatar avevano fatto pensare che il 3D potesse essere la svolta, la nuova vita del cinema. Via con tanti film in 3D, ma i successi sono stati assai rari. L'effetto 3D è già finito? C'è da domandarsi se sia mai iniziato, a dire la verità. Perché è vero, Avatar è stato sicuramente un film che dal punto di vista estetico ha portato delle novità piuttosto interessanti per quanto riguarda l'uso di questo strumento espressivo del 3D. Però dietro ad Avatar ci stava un lavoro, uno studio, una preparazione che era tutta puntata appunto in questa direzione, che è durata anni. Io sono sempre dell'idea che la famosa terza dimensione del cinema viene data dal movimento, è quello che crea prima di tutto l'illusione della terza dimensione, che il 3D in sé è uno strumento superfluo. Ma l'effetto 3D è stato riassorbito, secondo me il 3D si associa bene a un certo tipo di comics o comunque di un certo tipo di cinema spettacolare, blockbuster, che oggi non è più nel cuore di tutti, francamente, perché si basa sulla ripetizione, sul sequel, sul reboot, eccetera. Bisogna vedere cosa succederà quando Martin Scorsese con Hugo Cabret il 9 dicembre uscirà con il suo primo film in 3D, quindi con un primo davvero film d'autore in 3D. Cosa sarà per te il cinema fra 20 anni? Non ho idea, mi aspetto cose memorabili, chi lo sa, forse, magari lo vedremo direttamente innestato nei nostri neuroni, non lo so. Non riesco a capire se rimarranno le sale, se la sala rimarrà in qualche modo per il grande evento, per la grande frizione, per la socializzazione, o se la visione home, la visione in casa, la visione sparpagliata fra mille supporti e mille standard vincerà su tutto. Spero che la sala rimanga, soprattutto perché è nella sala che nasce davvero la passione del cinema. E allora chiudiamo con un ricordo, il ricordo di Adriano Piccardi e di Piera De Tassis della loro prima volta al cinema. Quello che mi ha iniziato non lo so, perché fin da piccolino i miei mi portavano al cinema abbastanza di frequente, quindi ho dei ricordi, dei frammenti che galleggiano, a volte non tanto ben identificati. I miei primi ricordi proprio abbastanza saldi risalgono a quando avevo 7-8 anni. E probabilmente il primo film che mi ha davvero coinvolto, direi che è stato Il Cavaliere della Valle Solitaria, ed ero rimasto molto coinvolto, forse per la presenza del bambino come spalla del protagonista, sicuramente per l'orrore e fascino che mi procurava il ghigno di Jack Peller. Allora, il mio primo ricordo è nitido, preciso, Cinema Modena, Trento, 1963, deduco dalla data del film. Vedo con mio padre al cinema, vedo una grande battaglia fra gli scheletri e gli umani. E naturalmente gli Argonauti, direi Harryhausen, credo di non essermi mai più ripresa, anche se non sono diventata da grande una fan del fantasy, però per me quella è stata l'immagine primaria di quello che il cinema poteva essere, poteva immaginare e poteva inventare. Grazie ad Adriano Piccardi, direttore di Cineforum, e a Piera De Tassis, direttore di Chuck, che ci hanno così mostrato due volti, due aspetti della passione, dell'amore per il cinema. A questo punto noi abbiamo ancora da giocare con la seconda traccia del DVD Game di oggi. Abbiamo passato le tue informazioni al nostro tramite. Il Mossad stava cercando di stanare quella gente dall'inizio della guerra. Così li costringete a scappare, andranno dritti in Iran. E questo era allora il secondo frammento del film misterioso che dovete provare a indovinare. Poi, come sempre, il più bravo e veloce del sabato e della domenica riceveranno, ove abbiano ovviamente vinto, il DVD di questo film. Più tardi ci sarà un'ultima possibilità. Ora, prima di dare la linea alla regia, diamo un'occhiata a come sono andate le cose al botteghino lo scorso fine settimana in Italia, perché continua ad andare molto forte, Nessuno mi può giudicare, che per la seconda settimana consecutiva è primo in classifica. Il film con Paola Cortellesi ha già raggiunto i 5 milioni e 300 mila euro di incasso globale, e è un'altra delle tante commedie italiane di grande successo che potrebbe davvero dare grosse soddisfazioni. Questi dati sono aggiornati a domenica scorsa, quindi c'è sicuramente ancora molto da aggiungere. E poi secondo posto per la commedia di Ivan Reitman, Amici, Amanti e, che però ha un incasso modesto come primo fine settimana, solo 692 mila euro. Terzo posto per Amici miei, Come tutto ebbe inizio, che dopo due settimane ha portato a casa 3 milioni, insomma non è sicuramente quello che si aspettavano i produttori. Voglio anche sottolineare come invece abbia fatto flop totale, Sotto il vestito niente, L'ultima sfilata di Carlo Vanzina, primo weekend con soli 250 mila euro di incasso, davvero un flop clamoroso. E allora, come sempre, prima selezione fra i palinsesti della prossima settimana nelle TV satellitari e soprattutto in quelle in digitale terrestre, in chiaro, rigorosamente in chiaro, per vedere quali grandi film possiamo vedere o rivedere o registrare, visti anche gli orari di messa in onda alcune volte. Siamo in collegamento con gli amici del settimanale Film TV e sentiamo che cosa ha scelto questa settimana Sara Sagrati. Ciao Franco, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori dalla redazione di Film TV, e ecco le nostre segnalazioni della settimana. Diciamo che che il filo comune è un po' una riflessione sugli Stati Uniti, diciamola così. Su Iris, domenica alle 21, un film di Lars von Trier con Nicole Kidman, che è Dogville, una storia ambientata sulle montagne rocciose, nello sperduto villaggio appunto di Dogville nel 1930, ma in realtà girata all'interno di un teatro di posa, quindi non c'è scenografia, ci sono dei segni col gesso per terra, la messa in scena è tutta svelata, quindi la macchina cinema è tutta svelata, per raccontare la vita di Grace, di questa donna che arriva nel villaggio, non si sa bene chi sia, da dove arrivi, si sa che è inseguita, il villaggio l'accoglie a patto che lei lavori, che lavori appunto per le persone del villaggio. Da qui parte poi una visionaria, nonostante la mancanza di scenografia, storia di cinismo, di crudeltà, che conquista nonostante tutto. Ci si scorda della mancanza di scenografia e arriva il film. E questo è davvero un film geniale, Dogville di Lars von Trier, sembra quasi il campo del Monopoli, il teatro di posa dove si consuma appunto la storia di questo film che fu presentato a Cannes con una grandissima evidenza, insomma ancora una volta aveva colpito nel segno questo genialoide regista danese. Dicevo, Dogville domenica alle 21 su Iris. Sara, dicevi che il tema che unisce i due film di oggi è una sorta di focus sugli Stati Uniti. Continuiamo quindi a parlare di Stati Uniti, in questo caso di Profondo Sud e nello specifico di Savannah in Georgia, una città forse rimasta ai tempi di Rossella O'Hara, e il film è Mezzanotte nel giardino del bene e del male, che andrà in onda su Rete 4 alle 23:30 venerdì 8 aprile. È un film di Clint Eastwood, la Moral Guidance di FinTV, ed è un'opera un po' particolare nella sua filmografia, un giallo thriller con venature altamente grottesche, personaggi fuori dal comune, fuori dalle righe. Un'ottima interpretazione di Kevin Spacey, un film magnetico nel suo essere quasi nonsense, ma poi il senso ce lo troviamo assolutamente. Eh beh sì, si trova sempre un senso in un film di Clint Eastwood, Mezzanotte nel giardino del bene e nel male, venerdì alle 23:30 su Rete 4. Grazie a Sara Sagrati, appuntamento alla prossima settimana. E allora siamo alla terza traccia, terzo frammento del film misterioso di oggi. Il fratello di Zahara lavorava con 500 scienziati nucleari alla centrale di Safa. Nel 91 la centrale fu rasa al suolo dai B-52. Hussein Kamel tenne insieme gli scienziati minacciando di ucciderli se fossero andati via. Le sanzioni però misero in ginocchio l'economia. E allora, se avete indovinato di che film si tratta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, e provate a vincere questo film che appunto sveleremo la prossima settimana con tanto di recensione, così come adesso sveliamo la soluzione del film della scorsa settimana. Arrivano! Zitta! Si avvicinano! Sta calma, non aver paura! È meglio volare via. Non volare. Qualsiasi cosa accada, non volare. Beh, questa è forse la traccia sulla quale molti dei nostri ascoltatori hanno indovinato. Si trattava di un super classico come Bambi, il film, possiamo dire mitico per una volta, mitico film d'animazione Disney che appunto arriva in Blu-ray e quindi arriva in una versione ad alta definizione, ovviamente con tutto quello che può comportare un film che ha così tanti anni alle spalle, ma adesso di questo ci dirà tutto Claudio Poffi. Io vi dico solo che i più bravi e veloci settimana scorsa sono stati Elisa Reduzzi di Bergamo e Simone Borri di Signa in provincia di Firenze, che riceveranno appunto l'edizione in Blu-ray della Disney di Bambi, che il nostro Claudio Poffi ci commenta così. Ciao Claudio. Eccoci Franco, ciao, un saluto agli amici in ascolto. Sì, un altro grande classico di Disney arriva in alta definizione, assolutamente impeccabile il lavoro di restauro, un risultato, che dire, strabiliante per le immagini, soprattutto considerando che quest'opera di 70 minuti risale al 1942. L'audio è offerto in DTS mono per l'italiano, addirittura DTS ad alta risoluzione per l'inglese. Ci sono diversi extra molto interessanti, su tutti segnalo questa visione del film con introduzione da parte di Diane Disney Miller, figlia di Lillian e Walt Disney, ma ci sono due modalità interessanti, diciamo, tra quelle più importanti all'interno dell'opera. C'è questa Disney View, dove la visione è enfatizzata dal supporto di tavole ed elementi colorati realizzati da un artista, Lisa Kim, un artista americano molto importante, oppure è possibile scoprendo la stesura della storia con visione immagine nell'immagine. E questo per quanto riguarda appunto Bambi, che era il film, il gioco della scorsa settimana. Noi invece abbiamo come sempre lo spazio per un paio di recensioni fra i film che sono arrivati in videoteca in questi giorni. E cominciamo con un film che proprio quest'anno, nella stagione attuale, ha avuto il suo remake d'autore, perché era firmato dai fratelli Coen. Stiamo parlando del Grinta, qui però vogliamo proporvi invece l'uscita in un video del primo, del capostipite, il film del 1960. Diretto da Henry Hathaway, che poi è anche il papà di Anne Hathaway, tanto per dirne una, con John Wayne, che vinse un Oscar per questa interpretazione del Grinta, di questo vecchio sceriffo con la benda sull'occhio, duro ma dal cuore d'oro. Allora andiamo ad ascoltare una clip. Voi altri siete troppo nervosi. Che avete combinato? Oltre a rubare bestiame. Hai detto che non hai un mandato contro di noi. Non è ufficiale, ma ho qualche modulo in bianco. Resistenza a pubblico ufficiale, questo da solo fa già un anno. La gamba mi fa male! Non lo metto in dubbio, amico mio. Quindi cerca di star fermo, è l'unico modo per sanguinare di meno. Desiderosa di vendetta, la giovane proprietaria di un ranch rimasta orfana dopo l'omicidio del padre chiede aiuto all'anziano e rude sceriffo federale Rooster Cogburn, detto il Grinta, per vendicarlo. L'impresa non sarà affatto facile. Nel 69 l'epopea del western hollywoodiano più classico si avviava alla fine, accompagnata dalla sua icona più grande, un grande film con The Duke. Da Paramount il Blu-ray, che sorprende per la qualità video, dove a parte i titoli di testa la grana non costituisce ostacolo alla visione, formato dell'immagine prossimo all'originale, dignitoso l'audio, addirittura in alta risoluzione per l'inglese. Tra gli extra, molto interessante da seguire il commento di tre storici del cinema western, analisi della sceneggiatura, ma soprattutto l'incontro con alcuni degli interpreti del film ancora oggi viventi, che ricordano John Wayne e il suo stile sul set. E questo per quanto riguarda il Grinta. E invece ritorniamo a parlare di commedia italiana. L'abbiamo fatto tanto quest'anno e l'abbiamo fatto anche durante questa settimana, perché uno dei film che hanno avuto maggiore successo nella stagione scorsa arriva appunto in un video, e il suo remake è già pronto per arrivarci, insomma. Allora, Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, ancora Paola Cortellesi, che è un po' la dominatrice di questo genere in questa stagione, protagonista insieme a Fabio De Luigi, a Sara Felberbaum, e ha un cast molto molto ampio. Commedia corale, al centro ovviamente il dualismo, i dissidi, le punzecchiature che fanno da colonna sonora, diciamo così, del rapporto fra uomini e donne, da che mondo è mondo. Allora ascoltiamo la clip. In quale film del 1987 Michael Douglas mette le corna alla moglie con una pazza furiosa che poi lo perseguita e gli ammazza pure il coniglio? Attrazione fatale. Bravo, formaggino fucsia. Che c'è? Ti vedo turbato. Io non ce l'ho il coniglio. Te l'ha già ammazzato. Io credo che in particolare un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra loro. Maschi contro femmine inizia così, con una citazione di Massimo Troisi, per raccontare di donne a caccia di sentimenti, uomini a caccia di sesso, ma anche parti opposte, viceversa. Ci sono tradimenti, cuori infranti, soddisfazione degli istinti. Divertente film corale con un cast che funziona. Da 01 Rai Cinema all'uscita DVD, ma soprattutto Blu-ray, che offre quest'ottima qualità. C'è qualche raro momento in cui la solidità è di poco inferiore, ma insomma sicuramente superiore il risultato rispetto al DVD. Marcia in più anche per l'audio nel Blu-ray, con questa traccia DTS ad alta risoluzione. Tra gli extra ci sono scene tagliate, ma soprattutto tutto da seguire, il divertente documentario di un'ora in compagnia del regista Fausto Brizzi. E allora grazie a Claudio Pofi per averci raccontato con la consueta perizia tutti i particolari delle novità in un video questa settimana. Appuntamento alla prossima. Ciao, a presto. E allora ci avviamo a concludere questa puntata della Rosa Purpurea. L'appuntamento va alla prossima settimana. Sarà un'altra settimana con una pioggia, una valanga di film anche piuttosto interessanti, da Sud di New York a Drive Angry, una opportunità in 3D. Ne abbiamo parlato oggi con i nostri due direttori ospiti, allo stravagante mondo di Greenberg, a The Next Three Days. Insomma, un po' di materiale di cui parlare, di cui discutere, da presentare come sempre qui in questo spazio dedicato al cinema sul grande schermo, La Rosa Purpurea su Radio 24. L'appuntamento quindi è per sabato prossimo alle 18 e per chi ci ascolta in replica a domenica prossima alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.